Come spesso capita il venerdì di rientro dal GR di Radio Popolare, si parte per un triplo appuntamento in scena, quindi subito con la sigla On Broadway di George Benson conosceremo lo spettacolo che martedì 13 febbraio sarà sul palcoscenico di Crevalcore, rassegna tre teatri per te con una protagonista, Violante Placido, che ho conosciuto e intervistato con grande piacere. Aggiungo che la tematica per quanto riguarda questo spettacolo, Quantum One il titolo, è il calendario cosmico, quindi argomento che affascina, eh? Pensate quante volte avete sentito l'esistenza dell'uomo dalla creazione dell'universo fino ai giorni nostri è meno di una briciola, è veramente uno spazio infinitesimale che sì, finché lo sentiamo così, certo ne abbiamo consapevolezza, ci rendiamo conto, però grazie all'unità di misura di un divulgatore astronomo statunitense, Carl Sagan, l'autore di questo calendario cosmico che grazie ai magazine tempo fa ebbi modo di conoscere, porta un'ulteriore concretezza, ascoltate bene, dal Big Bang, quindi l'afflato che ha dato il via a tutto, immaginiamo, almeno per quanto riguarda la misurazione di Carl Sagan, un 14 miliardi di anni, per come misuriamo noi il tempo. E se questi 14 miliardi di anni li sintetizziamo, sempre con l'unità di misura di Carl Sagan, in un anno solo, sapete teoricamente quando finisce la preistoria e inizia la storia? Beh, è veramente inquietante tutto ciò, perché da calcoli che sono stati riportati da questo divulgatore scientifico scienziato c'è anche una precisazione, perché è il 31 dicembre di questo ipotetico anno che va a sintetizzare i 14 miliardi di anni che vi ho citato in precedenza, esattamente il 31 dicembre alle ore 23:59:50. Quindi la storia, come noi la conosciamo, rispetto alla proporzione di questi 14 miliardi di anni dell'universo, non sono altro che 10 secondi. Sapete, no? Per quanto riguarda preistoria e storia, tutto comincia con l'inizio della scrittura. E per quanto riguarda i primi umani, arrivano il 31 dicembre alle ore 22:30. E potrei continuare agli antenati delle scimmie e degli uomini, che arrivano il 31 dicembre alle ore 13:30. Ribadisco, in un'immagine estesa di 14 miliardi di anni, se li sintetizziamo in un anno solo, queste sono le proporzioni di esistenza per quanto riguarda determinati passaggi della vita sulla Terra, dall'afflato del Big Bang e inizio dell'universo. Insomma, direi che fa riflettere tutto ciò. Ne abbiamo parlato con Violante Placido per presentare lo spettacolo Quantum One. Parla praticamente, è un viaggio indietro nel tempo, dal nulla cosmico alla comparsa dell'uomo sulla Terra, che detta così sembra un'odissea infinita. In realtà ricorro all'aiuto del calendario cosmico di Carl Sagan, che insomma è stato uno dei padri della divulgazione scientifica del Novecento, e lui riesce a racchiudere nell'arco di un anno tutte le tappe percorse dall'universo, dalla nascita dell'universo alla comparsa dell'uomo. E devo dire che mi appassiona tantissimo, perché e vedo che piace anche al pubblico, perché in fondo poi quando alziamo gli occhi al cielo, insomma, a guardare le stelle, tutti, no, abbiamo mille punti di domande e ne restiamo completamente affascinati, ma per tantissimi di noi è veramente difficile comprendere, anche avere, come dire, dei parametri per poter immaginare realmente quanti miliardi di anni sono passati e da quanto poco l'uomo stesso è comparso sulla Terra. Quindi è molto affascinante, anche perché siamo accompagnati poi appunto dalle musiche di Quantum One, di Andrea Vettoretti, che appunto è un compositore, che è accompagnato da Riviera Lazzari alla viola, Fabio Battistelli al clarinetto, e in tutti questi arrangiamenti c'è anche un rumore di fondo che altro non è che praticamente un rombo, il suono che sono riusciti a, come dire, a sentire gli scienziati con vari macchinari e che risale proprio al Big Bang. Pare che sia il suono che ancora riesce a trasmettere l'eco del suono, diciamo, della grande esplosione. Di questo inizio, di questa partenza, e poi tra l'altro è molto affascinante, almeno a me ha sempre affascinato il fatto che l'uomo sulla Terra è una briciola rispetto all'esistenza di tutto ciò. Esatto, ma infatti lo spettacolo vuole anche ricordare questo, perché noi ce lo dimentichiamo troppo facilmente, cioè noi siamo nulla rispetto alla nascita dell'esistenza, eppure siamo così arroganti, così poco rispettosi, arrabbiati, così poco grati, ecco, anche proprio al miracolo veramente dell'esistenza, a questo pianeta meraviglioso che se fossimo capaci tutti di nutrire quotidianamente la nostra umanità, il nostro rispetto anche verso qualcosa di molto più grande, forse riusciremo ad avere un'armonia diversa su questo pianeta. Musica che ho voluto portare io, questo caos primordiale per poi arrivare a effetti sonori che danno l'idea dell'accompagnare da questo magma a uno spazio infinito, immenso, le stelle, gli astri, i pianeti, e questo tratto dal disco Gemini di Marcus Belgrave, trombettista sensazionale, è il brano Space Odyssey. Teatri per te a Crevalcore, stagione teatrale 2024, è martedì 13 febbraio, Violante Placido in Quantum One. Per la precisione all'Auditorium 1 maggio alle ore 21, Viale Caduti di Via Fani 300, ovviamente a Crevalcore. Ho letto su un Martin Mister che per me un po' è stato, ecco, quando ero adolescente, è stato, ieri ho citato il grande Alfredo Castelli, recentemente scomparso, è stato un po' un protagonista, se vogliamo, per alcune curiosità. Abbiamo parlato con Violante Placido del suono che ha emesso il Big Bang al momento del dell'inizio, il momento zero, no? Un suono, un afflato che ha fatto partire tutto, che ancora sembra riecheggiare. Allora in questo Martin Mister si riportavano studi in cui il famoso om presente durante la meditazione, questo suono, questo antichissimo suono, pare sia esattamente il suono del via, dell'anno zero, dell'inizio primordiale dell'universo. Om. Alcuni episodi se per noi sono 14 miliardi di anni racchiusi come se fossero una giornata, no? E quindi l'uomo arriva, cioè finisce, anzi un momento importante, la fine della preistoria con la scrittura inizio della storia, sarebbe il 31 dicembre alle ore 23:59:50. La storia che conosciamo noi è di 10 secondi e la conosciamo anche male, pensa un po'. Sviluppo di scienza, tecnologia, prima e seconda guerra mondiale sono appunto in corso al 31 dicembre alle ore 24, per cui secondo più, secondo meno, a termine di questo microsecondo, ecco. Io, colto dall'entusiasmo, tra l'altro ringrazio Violante Placido, molto disponibile ai microfoni di Radio Città Fugicola, è molto brava, talentuosa e ispirata, e con questa interpretazione unita alle sonorità, alla musica, per descrivere il Quantum One, l'inizio, il Big Bang, fino al momento in cui si prende conoscenza dell'uomo sulla Terra, che è veramente un tempo infinitesimale. Ho detto, ma chissà quale scenografia, coreografia, e invece... Guarda, in realtà è tutto molto semplice, non ci sono coreografie, ma la musica è talmente coinvolgente nel momento in cui si incastra con le parole, con il racconto, perché infatti è quasi, cioè veramente ci amalgamiamo insieme, e, c'è una bella complicità tra noi, sia umanamente dentro fuori dal palco, ma anche nel momento in cui parte questo viaggio, questo racconto, le musiche fanno veramente da colonna sonora a questo viaggio, che poi è anche un allenamento, diciamo, per noi quando ascoltiamo le parole, quando ci sediamo, la musica ci aiuta anche a fare un viaggio emotivo, e quindi ci porta in contatto anche con le nostre parti profonde e riusciamo a immaginare. A me, diciamo che veramente quando parto in questo racconto, anche io proprio coinvolta, sono travolta, sì, e mi piace proprio, è uno spettacolo, è una lettura, ma diventa energica, perché è troppo energico la forza, la nascita, certo, dell'esistenza del tutto, quindi di sicuro non è un viaggio soporifero, ecco. Alla fine il cervello è un muscolo, e noi oramai, cioè, lo nutriamo soltanto di queste immagini velocissime che ci compaiono sui telefonini. Siamo abituati a questo fast food mentale che però ci lascia veramente poco dentro, non riusciamo ad assorbire quasi niente, cioè è come, cioè, leggi una cosa, l'hai letta, e dopo la sputi fuori, sei pronto a riceverne un'altra. Invece secondo me, ecco, è importantissimo anche il teatro stesso, o comunque appunto questi progetti legati a musica e parola, sono veramente, ci ricordano anche l'importanza di allenare il nostro cervello, la nostra capacità di immaginare, di riflettere, di soffermarci sulle cose e riflettere. Grazie Violante, mi unisco a questo tuo pensiero di sedimentare, di riflettere, leggete senza fretta. volta leggete per entrare nella narrazione. Qui mi ricollego al voltiamo pagina, già leggiamo poco purtroppo, e come ha detto Violante Placido, le informazioni che riceviamo sono pronte per essere sostituite da altre. No, cerchiamo di assimilare, di sedimentare positivamente quelle che abbiamo appreso, e tutto ciò lo possiamo fare anche grazie al teatro. Quantum One, Violante Placido, troviamo martedì 13 febbraio la stagione teatrale di Crevalcore, tre teatri per te, auditorium 1 maggio alle ore 21, ovviamente a Crevalcore. E qui un altro tutti i tempi, lui è Pharoah Sanders, anche lui per l'Astral Space Jazz, Marcus Belgrave. Aggiungiamo un'altra figura bizzarra ma tanto talentuosa che è San Ra. Qui Pharoah Sanders, il coltraniano Pharoah Sanders, che nei suoni di Astral e Space Jazz porta questo viaggio astrale, Astral Traveling, che ci accompagna alla pubblicità per poi tornare in scena. A tra poco. Thank you.